dirti che qui in fondo tutto è uguale. Voglio il mare, tu mentre prepari il caffè, parlando delle cose che hai da fare. Io ogni distanza cerco quel senso che mi tiene viva, ma tu solo senti quello che poi è dentro di me. Tu sai illuminare i miei tornati e tutte le cose che ho perso in questi anni che volano cercando il mio universo. E tutte le volte che ho pianto, tu sai quando ho paura e capisci ciò che sento. Mamma, io vorrei dare a te gli occhi per guardare sempre altrove. Tu che mi hai insegnato cos'è, che vuol dire amare le persone. Io solo una stanza, milioni di porte, vorrei starti accanto, abbracciarti più forte. Mamma, tu sei l'unica che sa illuminare ogni colore. E tutte le cose che ho perso in questi anni che volano cercando il mio universo. Che ho pianto, tu sai quando ho paura e capisci ciò che sento. E mille cose che ho dentro in questi anni che volano, dove si ferma il tempo. E tutte le volte che ho pianto, tu sai quando ho paura. E niente, basta, se no piango ancora. Grazie amore, bellissimo il pezzo, stupendo, mi ha fatto uno dei regali più belli della mia vita. Grazie amore, ti amo tanto.